vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 15 novembre, il sole in regione è sorto alle 7 e tramonterà alle 16.49. La luna è crescente, siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. C'è un nuovo allarme anche nelle campagne del Friuli Venezia Giulia, quello della moria dei kiwi, coltivazioni che negli anni scorsi avevano dato grandi soddisfazioni economiche ed agronomiche. Alla lotta contro questa patologia partecipa anche l'Università di Udine. Per la rubrica del bio parleremo delle piante che contribuiscono alla creazione del suolo e nell'universo vino non poteva mancare un capitolo dedicato all'uva, ai grappoli e agli acini per scoprire particolari che forse non tutti conoscono. Andando in orto, questo è tempo di verze, cavoli e broccoli, la grande e generosa famiglia delle brassicacee che possiede tante virtù. Per i prodotti tipici regionali siamo ancora a parlare di grappe e della sua storia recentissima e per chi avesse la nostalgia del profumo delle frittelle, delle fiere paesane tipiche di questo periodo, un approfondimento proprio sulle frittelle. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. I primi casi nel 2012 in Veneto, poi la malattia, quella che viene chiamata la moria del kiwi, si espanse e è arrivata anche in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi anni è andato perso il 9% della superficie dedicata a questa coltura e sono 650 più o meno gli ettari nella nostra regione. Di cosa si tratta? Cos'è questa moria del kiwi? Lo chiediamo a Paolo Ermacora del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali dell'Università di Udine. La moria del kiwi o della clinidia è sicuramente una cosiddetta malattia complessa, nel senso che anche dalle ultime ricerche si evince che probabilmente sono coinvolti sia dei fattori ambientali che appunto dei fattori biotici, ovvero patogeni, o comunque la comunità microbica ha un ruolo importante in quello che si manifesta durante il periodo estivo, quindi di massima richiesta di evapotraspirazione di acqua della pianta per la crescita e anche per la crescita dei frutti, con una sofferenza importante delle foglie, un disseccamento anche molto repentino che porta alla morte della pianta nel giro di poche settimane. E a questi sintomi che noi vediamo sulla parte aerea corrisponde anche un apparato radicale completamente compromesso, assenza di capillizio giovane, attivo nell'assorbimento, e anche marcescenza delle radici strutturali, no? Quindi conseguenza di quello che poi è praticamente un colpo apoplettico delle piante, e purtroppo nella quasi totalità dei casi l'esito è irreversibile. In un primo tempo si pensava che fossero solo errori riguardo all'acqua che si dava o arrivava alla pianta, poi si è scoperto che c'è anche qualcos'altro. Le prime segnalazioni in Veneto nel 2012-13 erano associate a gestioni idriche con abbondanti volumi d'acqua, irrigazione e scorrimento. La comparsa in Friuli fine 2014-2015 anche qui in questo caso era stata imputata alla stagione 2014, che è stata molto particolare per le piovosità e anche appunto all'insorgenza di questo fenomeno su terreni piuttosto pesanti, limosi. Poi in realtà anche nelle stagioni successive la malattia è progredita e attualmente la troviamo anche su zone dove il semplice ristagno idrico non giustifica, ecco, questa situazione. Quindi da ricerche recenti dell'Università di Udine in collaborazione con l'ERSA è emerso anche un ruolo importante di microrganismi patogeni. Cosa si può fare? Dobbiamo imparare a gestire molto bene anche l'irrigazione. Il kiwi forse è passato negli anni scorsi il messaggio che al kiwi più acqua si dà meglio è. In realtà bisognerà imparare a gestire molto bene anche questa risorsa, ad ottimizzarla. Ci sono anche delle soluzioni che si stanno tentando con l'utilizzo ad esempio di portinnesti, quindi di un apparato radicale che sia meno sensibile a queste problematiche. Siamo agli inizi, ma sono appunto risultati incoraggianti. Cosa vuol dire da un punto di vista economico perdere un ettaro di kiwi? Ne abbiamo persi 60 in Friuli Venezia Giulia. Come impianto, insomma, dipende un po' dalla tecnologia che si utilizza, ma insomma 20-30 mila euro di spese di impianto e di una coltura che non è eccedentaria, che basta vedere nei supermercati, insomma, al di là di tutte le distorsioni magari della distribuzione, ma insomma i prezzi sono interessanti, quindi sarebbe anche allettante come coltura. La problematica poi legata a questa malattia è che purtroppo dove si va ad espiantare per moria, e chi l'ha fatto purtroppo ne ha subito le conseguenze, chi ha reimpiantato kiwi è andato incontro a delusioni, quindi è un po' un danno che rimane permanente. Cosa si sta facendo da un punto di vista della ricerca scientifica per contrastare questa moria? Sì, il servizio fitosanitario regionale, appunto l'università, hanno cercato di capire quelle che sono le cause e appunto sviluppare sistemi di contenimento. Attualmente c'è un progetto regionale appunto anche su questa problematica, nel quale nei prossimi anni speriamo di dare delle soluzioni concrete agli agricoltori. Con Cristina Micheloni per la rubrica del bio parliamo delle piante che contribuiscono a creare il suolo, la terra. Oggi vorrei fare un discorso davvero terra a terra, semplice ma non semplicistico, su un tema estremamente attuale, il suolo. L'ispirazione e la necessità di approfondire nasce dall'interessantissimo webinar tenuto nella settimana passata dal professor Andrea Squartini dell'Università di Padova. Il concetto fondamentale attorno al quale tutte le pratiche agricole andrebbero riorganizzate è che sono le piante, nel loro accrescersi, moltiplicarsi, interagire, a costruire il suolo. Ciò avviene grazie all'attività delle radici lungo il profilo del terreno e dall'emissione di una massiccia quantità di essudati radicali, un vero carbonio liquido, come lo definisce il professor Squartini, che nutre e promuove l'attività microbiologica del suolo, ovvero quei miliardi di individui che li vivono, in buona parte batteri, ma anche funghi, atinomiceti, nematodi ed altri, e che nel loro insieme pesa dalle 3 alle 4 tonnellate per ettaro e sono generalmente localizzati nei primi 20-30 cm di profondità. Ma pesa non solo ponderalmente, bensì anche funzionalmente, giacché determinano i cicli dell'humus e dei nutrienti, ma anche le caratteristiche fisiche del suolo, incluso la possibilità dell'ossigeno di circolare e dell'acqua di essere stoccata quando limitata e smaltita quando in eccesso. Un bel ribaltamento di prospettiva rispetto alla comune visione secondo la quale è la pianta che trae dal suolo i nutrimenti che necessita. Ed allora, che cosa deve fare il bravo agricoltore? Far crescere più piante possibili sul proprio terreno, sia durante i periodi dell'anno, detto in altre parole tenendo sempre coperto il terreno o con colture da reddito o con colture di copertura, ovvero i sovesci, ma anche all'interno delle colture, ovvero non a facce scoperte tra una fila e l'altra o tra una pianta e l'altra lungo la fila, ma piena copertura attraverso consociazioni tra semini ed altro. Solo così la sostanza organica funzionalmente utile aumenta, sia in percentuale ma anche in profondità, e così facendo crea le condizioni ottimali affinché altre piante crescano e attivino un ciclo virtuoso in cui le piante crescono l'una accanto all'altra ancora meglio e producono ancora più suolo buono per le piante. Un'altra informazione per certi versi scioccante? Gli apporti di letame in genere aiutano, ma molto meno di quanto possono fare le radici vive e attive. Quindi la fertilizzazione organica non basta, bisogna lasciar lavorare le piante e disturbare il terreno il meno possibile con aratri, sarchiatrici ed erpici. Certo, si tratta di un percorso più difficile e lungo, ma non poi così lungo, visto che i dati alla mano, che ci ha mostrato il professor Squartini, dimostrano che si può incrementare di un paio di punti percentuali la dotazione di humus del terreno in una decina di anni, e 10 anni non sono poi così tanti in termini agricoli. E che cosa si può fare oggi? Seminare i sovesci invece che lasciare il terreno nudo, fino alla prossima primavera, e consociare i cereali autunno-vernini con qualche leguminosa. Ne abbiamo parlato già in passato più di qualche volta, vero? Per la rubrica del vino siamo arrivati all'uva, o meglio al grappolo e agli acini, con una descrizione del professor Roberto Zironi. Quello che noi conosciamo come il frutto dell'uva, il grappolo, non è il vero frutto, ma è una infruttescenza. C'è un insieme di frutti che sono propriamente gli acini. Gli acini sono di colore diverso, gialli o rossi di varia intensità. Il raspo è l'asse centrale del grappolo, che collega quindi gli acini, i frutti, alla pianta madre e contribuisce a trasferire quindi gli elaborati dalla pianta madre ai frutti per il proprio accrescimento. Il raspo ha una conformazione legnosa, che quindi dà rigidità all'infruttescenza ed anche la struttura caratteristica del raspo, e quindi dà ai grappoli la classica conformazione che spesso è legata alle caratteristiche varietali dell'uva stessa. Questa conformazione legnosa dà chiaramente un contributo limitato alla produzione del vino, in quanto non è il raspo commestibile e contiene delle sostanze che possono dare delle caratteristiche non positive al vino. Gli acini si compongono di 3 parti, la buccia, la polpa e i semi affondati nella stessa polpa. La funzione della buccia è una funzione di protezione e costituisce circa il 10% del peso del frutto. Inoltre, nella buccia sono contenute, oltre alle sostanze che vedremo essere presenti anche nella polpa, una serie di sostanze che danno le caratteristiche cromatiche al frutto e quindi conseguentemente anche al vino che sarà ottenuto da questi frutti. Sopra la buccia abbiamo una sostanza pruinosa che dà una sorta di infarinatura alla superficie del frutto stesso, che ha un'importante funzione di protezione del frutto da tutti quelli che sono gli stress esterni, sia di origine animale che di origine vegetale, e quindi protegge in definitiva il frutto anche da tutte quelle che sono le possibili modificazioni del regime idrico che potrebbero portare ad un avvizzimento, ad un appassimento del frutto stesso. Inoltre sulla pruina sono presenti i lieviti che vedremo saranno i responsabili della fermentazione alcolica dei succhi. La polpa è costituita principalmente da acqua, più del 75%, da un 20% di zuccheri, più tutta una serie di altri componenti che ne danno chiaramente le caratteristiche nutrizionali ed enologiche, cioè le caratteristiche del vino. La polpa presenta poi al suo interno, nella parte più interna, dei semi, che si chiamano vinaccioli, che sono caratterizzati da un alto contenuto di molecole antiossidanti e di oli. Chiaramente questa seconda componente non passerà nel vino, mentre le composte antiossidanti varranno a contribuire alle caratteristiche organolettiche del vino stesso in funzione della macerazione a cui saranno sottoposte le diverse componenti del frutto per la produzione della bevanda. C'è una famiglia di vegetali importantissima nell'orto, soprattutto di questa stagione. Sono le brassicace, ovvero verze, cappucci, ma anche rape. Un panorama completo ce lo dà Sara Bosco, che ci cura la rubrica dell'orticoltura. Questa famiglia botanica, infatti, è abbastanza numerosa. Comprendono diverse varietà di cavoli, rape, cime di rapa, rafano, ma anche rucole e rapanelli. Sono piante che possono essere coltivate negli orti senza particolari accorgimenti. La coltivazione inizia innanzitutto con la preparazione del terreno, che nel caso della semina diretta deve presentarsi molto omogeneo perché il seme risulta essere piccolo. Nei mesi primaverili di solito viene eseguita una concimazione di fondo con del concime organico, come appunto il compost o il letame. Questo materiale va interrato per poi eseguire tutte le diverse operazioni di affinamento del terreno. La semina viene eseguita in semenzario già in tarda primavera, mentre il trapianto viene eseguito in tutti i mesi estivi fino a fine agosto. Necessita di un buon apporto idrico nelle prime fasi di sviluppo, mentre di solito nei mesi successivi è sufficiente l'apporto delle precipitazioni atmosferiche. La parte più complicata però della sua coltivazione è il controllo delle malattie e degli insetti, che spesso possono creare molti danni, tanto da compromettere buona parte dell'apparato fogliare. Perciò è necessario effettuare un buon monitoraggio sulle piante. Tutti i prodotti poi vengono raccolti a piena maturità, ricoprendo tutto l'anno. Hanno delle ottime proprietà nutrizionali e sono molto versatili sia in cucina che in agricoltura. Contengono molti sali minerali importanti per il buon funzionamento del nostro organismo, hanno un elevato contenuto di fibre e sono utili per combattere diverse patologie intestinali. Inoltre, questa famiglia viene impiegata anche in agricoltura come sovescio, perché apportano, oltre sostanza organica al terreno, lo mantengono coperto, evitando l'erosione dovuta agli agenti atmosferici, ma anche compiono un'attività contro nematodi e funghi, grazie all'azione dei glucosinolati, che sono dei componenti che in determinate situazioni danno origine a delle sostanze biocide, che quindi agiscono in maniera selettiva nei confronti dei nostri microrganismi utili, non andandoli ad intaccare. Questo stesso procedimento avviene anche nel nostro organismo quando vengono assunti e favoriscono diverse azioni utili, tra cui anche quella antitumorale. Dopo una puntata dedicata alle origini, ai primi secoli della diffusione in Friuli Venezia Giulia, oggi Adriano Del Fabbro, per la serie dei prodotti tipici, nel caso la grappa, continua per arrivare fino ai giorni nostri. Nel 1853, scrivendo sul vino del Collio, Giuseppe Floreano Formentini aggiungeva che la zarpa, la vinaccia, poi levato nel vino col torchio, serve a produrre un'eccellente acquavite. All'indomani dell'annessione del Friuli all'Italia nel 1866 nella provincia di Udine, furono censite oltre oltre 1000 distillerie, ridotte a 40 nel 1912, le cui secolari tradizioni e culture sono state tramandate alle attuali 14 distillerie regionali a conduzione familiare, tutte utilizzanti tradizionali impianti di distillazione discontinui a vapore diretto. Nel 1879, a opera del commerciante Domenico Campagna, nasce a Castions di Zoppola la distilleria Pagura. Tra quelle ancora operative in Friuli, può vantare le origini più antiche ed è l'unica distilleria attiva in provincia di Pordenone. Bernardo Benussi, nel 1903, a proposito della viticoltura del litorale, che comprendeva Gorizia, Gradisca, Trieste e l'Istria, scriveva che dalla trappa, dell'uva e da alcune frutta si distilla l'acquavite, nella cui fabbricazione erano attive nel 1900 3014 distillerie. Tradizionalmente la grappa si è sempre bevuta sola, fino al 1970, quando fu organizzato a Udine il primo concorso per cocktail a base di grappa. Una delle ragioni per cui la grappa ha cambiato volto e tipologia di produzione e di consumi negli anni più recenti è legata all'invenzione della distillazione delle vinacce di un solo vitigno. Fu Benito Nonino, dell'omonima distilleria fondata per Cotto di Pavia di Udine nel 1897, l'artefice dell'innovazione. Da allora quasi tutte le distillerie friulane e italiane hanno messo in catalogo una o più grappe di monovitigno. Nel 1975 è nato il Consorzio per la tutela della grappa friulana. La grappa friulana, riconosciuta e protetta dalla Comunità Europea dal 1989, esprime il meglio se distillata da un insieme di tutte le vinacce vergini fermentate, prodotte in una vendemmia. Dall'agosto del 2016 l'imbottigliamento della grappa all'estero è consentito solo come prodotto finito, quindi senza possibilità di tagli. La qualità del distillato friulano dipende per oltre il 60% dall'intervento umano, equamente ripartito tra il saper far fermentare e conservare la materia prima, il saper costruire gli impianti di distillazione e il saper distillare, con vera e propria arte, una materia prima povera di resa alcolica, ma ricca di profumi e aromi, che combinati assieme danno una bevanda spiritosa, unica al mondo e inimitabile. Era il profumo tipico delle feste paesane, grandi e piccole, ricordi di un tempo neppure tanto lontano ed oggi usurpato da quello che chiamiamo street food. All'origine di questi profumi le frittelle che oggi sono nelle attenzioni di Roberto Zottar. Il cibo da strada è sempre stato il cibo dei poveri, con origini che risalgono agli albori della civiltà. Ad Ercolano e Pompei ci sono i resti dei tipici termopolia, gli antenati dei moderni baracchini dove si vendevano minestre di fave, farro e cicerchie. I greci riferivano dell'usanza egizia del porto di Alessandria di friggere il pesce e di venderlo per strada, tradizione che poi ritroviamo oggi in Inghilterra con il famoso fish and chips. A Parigi i patè, farciti con carne o verdure venduti in strada, hanno dato origine a una serie di ricette tipiche come i timballi, le sfoglie e le varie torte salate. Oggi i cibi poveri si sono nobilitati con il nome di street food e sono venduti sui food truck e sebbene profumino ancora di tradizioni e culture locali, talvolta li ritroviamo in versione gourmet e a pezzi tutt'altro che bassi. Il legame territoriale è però evidente se pensiamo agli arancini siciliani, agli arrosticini abruzzesi, allo gnocco e tigelle emiliane, alle focacce ligure, a quelle pugliesi, al panino di Lampredotto a Firenze o alla farinata a Genova. A Palermo si mangiano pane e panelle e i pani cameusa con milza e polmone. A Napoli la pizza a portafoglio, i cuoppi di fritti di formaggio, pasta cresciuta e verdure e o pere e o musso a base di piede di maiale e muso di vitello. Nelle nostre zone, oltre a caldarroste e a fette di anguria, una volta si trovavano i folpetti caldi, i caramei di frutta, i peri pettorai e a Trieste c'erano i venditori di mussoli e i fritolini con schile, ribaltavapori e calamari. Ci sono ancora in buffet con i panini de Porzina o Luganiche de Vienna. Oggi vi parlo di street food perché per il lockdown, si arrabbierà Enos Costantini, ma tant'è l'inglese, non ci saranno le fiere di Santa Caterina a Udine, Sant'Andrea a Gorizia e San Nicolo a Trieste e quindi vi voglio lasciare la ricetta di quelle golose frittelle inzuccherate dei Luna Park per farvi ritrovare i profumi del periodo. Impastate bene mezzo chilo di farina con la scorza grattugiata di un limone, 80 g di zucchero, un pizzico di sale con 280 ml di latte tiepido in cui avrete sciolto 30 g di lievito di birra. Aggiungete 100 g di burro morbido, lavorate l'impasto fino a che non sarà liscio e setoso. Fate lievitare, reimpastate, formate delle bocce che farete lievitare per 30 minuti. Allargate poi le palline con le mani e friggetele in abbondante olio caldo a 170 gradi da ambo i lati. Scolate le frittelle, passatelo subito nello zucchero semolato e mangiatele caldissime. Buon appetito! come stanno andando le quotazioni sui mercati agricoli? Ce lo dice Amos D'Antoni. Mercato attivo e prezzi in rialzo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, e dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 17,90 e 18,10 euro il quintale IVA esclusa. L'orzo, con peso specifico 60,63, tra 17,10 e 17,60. Il frumento tra 19,80 e 20,10. E la soia tra 40,20 e 40,50. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 2 euro e 10 centesimi e la soia di 7 euro e 20 centesimi il quintale. Passando ai bovini da macello si rilevano segni di pesantezza nelle quotazioni. Le vacche fine carriera e prima qualità sono pagate a peso morto tra 2,15 e 2,50 euro il chilo IVA esclusa e quelle di seconda tra 1,40 e 2,10. Mentre il mercato dei vitelli da ristallo risulta stazionario e l'ultimo andamento rileva i blu belga maschi quotati tra 5,90 e 6,40 euro il chilo IVA compresa. I pezzati rossi tra 4,50 e 4,90, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,30 e 1,60. Nel comparto suinicolo si rilevano ancora cenni di pesantezza. Il valore dei lattonzoli di 30 kg franco partenza viene fissato a 2,22 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 1,32. Domanda sofferente, con quotazioni stabili nel settore caseario, e il prezzo del montaggio fresco è compreso tra 6,05 e 6,35 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 7,20 e 7,50, con marchio di qualità tra 8,20 e 8,50, lo stagionato 12-15 mesi tra 7,90 e 8,30. Il latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia è stato quotato dalla Commissione Camerale di Pordenone e Udine, francostalla a 36 centesimi il litro più premi qualità e IVA, e il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 17,10 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. La prima metà di novembre è stata caratterizzata da tempo in prevalenza stabile anticiclonico, con ben poche e lievi eccezioni. Fin dal giorno di Ogni Santi le giornate si alternano tra nebbia e nubi basse su gran parte della pianura della costa, e nuvolosità variabile sulla zona montana con un po' più di sole ad alta quota. L'immersione termica si accentua e si abbassa di quota nei giorni successivi, determinando tempo stabile, bello e mite in quota, più chiuso e umido su pianura costa, ma comunque con temperature non lontane dalla media termica del periodo. Intorno al 4 novembre le parti si invertono, un debole fronte porta piogge locali e rimescolamento atmosferico, con temperature che addirittura salgono sopra la media su pianura costa, complice un po' di bora, mentre rientrano nella norma sui monti. Dura poco, nei giorni successivi si stabilisce un anticiclone, con marcata inversione termica nei bassi strati. Su pianura costa le temperature scendono anche un po' sotto la media, mentre in quota schizzano di almeno 5 gradi oltre la norma, con azero termico costantemente sopra i 2500 metri. Una breve parentesi ci attenderà domani con delle piogge in mattinata e la ricomparsa della neve oltre 1500 metri circa, forse verso i 1200 sul Tarvisiano, e poi, col miglioramento pomeridiano, anche bora sulla costa. Successivamente l'alta pressione rimonterà decisamente con prevalenza di sole, salvo temporanee e nubi di passaggio tra martedì e giovedì. Le temperature nei bassi strati diminuiranno nei valori minimi, generalmente sotto i 5 gradi sulla pianura, intorno agli 8 sulla costa, mentre le massime riusciranno a toccare e superare di nuovo i 15 gradi, grazie all'afflusso di bora moderata su costa e zone orientali. Lo zero termico, in compenso, salirà rapidamente oltre i 3000 metri, regalando giornate davvero miti in quota. Venerdì si profila un altro veloce fronte che potrebbe portare, fino alle prime ore di sabato, qualche pioggia sulla regione e un calo termico generalizzato, specie in quota, mentre il vento nei bassi strati continuerà a spirare dai quadranti nordorientali. Come di consueto vi invitiamo comunque a seguire gli aggiornamenti a cuore di Osmer Arpa sulla RAI regionale, su internet, sulla telefonia mobile e sui vari social media. Alla prossima! Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Sorelia San Martin, alda non vier cianin, ovvero se c'è sole a San Martino l'11 novembre avremo un inverno freddo, freddo cane. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.